settimana nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 4 luglio, il sole in regione sorto alle 5.21 e tramonterà alle 21.02. Sabato c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Ci sono nuove tensioni sul prezzo del latte, che in Friuli Venezia Giulia viene quotato un 10% in meno rispetto alle altre regioni del nord, questione di centesimi che farebbero comunque la differenza per gli allevatori. A seguire il corsivo di Anna Costantini sulla felicità delle piccole cose che potrebbe essere ancora recuperata. Nuove normative poi per il settore cunicolo, alle prese con cambiamenti strutturali che potrebbero essere troppo onerosi per le imprese. Per la rubrica della frutticoltura un contributo sull'allevamento domestico dei limoni, piante che danno grande soddisfazione. Per le criticità indotte dallo sfruttamento delle risorse, oggi una scheda sulla pesca, nel mirino per la desertificazione dei mari e i cambiamenti dell'ecosistema. A seguire la testimonianza di un tirocinante dell'Università di Udine alle prese con uno stage all'Ersa di Pozzuolo. In conclusione, come di consueto, andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Ci sono di nuove tensioni sul prezzo del latte, un prezzo che continua a scendere, mentre in altre parti d'Italia invece tiene. Ne parliamo con Graziano Zanello, componente della Commissione Camerale Latte e Prodotti Caseari. Partiamo dalla quotazione di venerdì scorso, quanto era valutato? Venerdì scorso lo abbiamo valutato 35 il minimo, 36 il massimo. Perché in altre camere di commercio, parlo di Milano, parlo di Verona, è oltre i 40 centesimi, un 10% in più quindi? Beh, i motivi sono molteplici. Innanzitutto, se parliamo della Lombardia, sono più ben strutturati rispetto alla nostra regione e quindi riescono a spuntare un prezzo maggiore. Purtroppo noi da anni paghiamo questo scotto. E perché? Perché non siamo organizzati? Perché non siamo capaci di rispondere al mondo del commercio, agli acquirenti? Probabilmente sì. Anche per questo motivo qui gli allevatori devono unirsi assieme e veramente studiare la situazione per cercare di uscire da questo impasse. Sembra che siamo una regione dove bisogna depredare continuamente. Lo è già stato nella storia e continua ad esserlo anche nel settore lattiero caseario. Corrisponde al vero che il latte viene venduto, viene ceduto addirittura sotto le quotazioni che fate voi? Purtroppo qualche volta sì, perché la parte opposta, cioè chi viene ad acquistare il latte, se sa che gli allevatori sono in difficoltà, beh, è facile. O vendono o aprono la saracinesca del frigo e buttare via il latte veramente è un peccato. E quindi l'allevatore molte volte cede. Quali sono le voci che concorrono alla formazione del prezzo del latte? Si parla per esempio di latte spot. Il latte spot è un prezzo fatto all'istante, sul momento, come si suol dire, visto piaciuto. Se in quel momento la domanda è alta, è ovvio che il prezzo sale. Invece, per quel che riguarda il prezzo regionale di una cooperativa o anche di un privato, il prezzo viene fatto in base alla qualità del latte, in base anche al trasporto, e ci sono altre variabili che vengono aggiunte. Lei prima ci diceva che per non chiudere da subito tutte le stalle del Friuli Venezia Giulia bisogna diversificare. Cosa vuol dire? Fare diverse zootecnie. E la zootecnia del latte a fieno, la zootecnia del biologico, la zootecnia del trasformato di eccellenza e poi puntare su mercati che non siano solo friulani e italiani, ma avere il coraggio anche di andare oltre le nostre regioni, oltre la nostra nazione, perché no, anche oltre l'Europa. Una risposta potrebbe arrivare anche dai micro caseifici? Sì, perché no? Non fa nessun male, anzi, ben gestiti, dove ci sono le famiglie a conduzione familiare, delle volte danno una buona risposta. Parliamo degli allevatori. L'altro giorno ho incontrato un allevatore che stava facendo gli sfalci sui prati, su dei prati di collina. Mi ha detto: quando chiudo la stalla stai pur sicuro che non mi conviene venire a tagliare quest'erba, questo fieno. Quindi dice: io non faccio solo l'allevatore, faccio anche l'ambiente. Cosa possiamo rispondergli? Questo è vero, qualcuno gli deve riconoscere quel ruolo. Un ruolo che va anche monetizzato? Assolutamente, tutti vengono monetizzati, poco o tanto, ma è giusto che sia così. Come fare? Con delle leggi regionali, con dei contributi ad hoc e valorizzando il suo lavoro e facendo capire anche ai cittadini e ai consumatori che quel ruolo lì è un ruolo importante, perché altrimenti spuntano i rovi, alberi che ricacciano in malo modo e poi nessuno controlla il territorio. Ricordiamo un dato che è per certi versi disarmante. Quanti litri di latte servono oggi per comprare una pallina di gelato? Se calcoliamo una pallina vale 1,50 euro, il latte viene pagato 35, beh, se sta poco a fare i conti, sono 4 litri di latte per una pallina di gelato. La nostalgia del piccolo mondo antico spesso lascia il tempo che trova. Non è così però quando si confronta la qualità della vita e la felicità delle piccole cose, come ci dice in questo corsivo Enos Costantini. Tony Balin ogni mattina comprava il pane appena sfornato nel forno del paese, poi passava nella bottega per acquistare 2 etti di mortadella e riempire una bottiglia di vino quando il suo era finito. Armato di tutto ciò, andava in Pradas, dove aveva un look, cioè un piccolo ricovero per lui, 2 capre, un cane senza razza e un gatto di ignota origine. La moglie no, quella non era ammessa. Poi c'erano l'orto, un'ampia superficie a prato, campetti con fagioli e patate, gran turco per polenta e l'immancabile piccola vigna. Insomma, di che lavorare tutto il giorno in santa pace. Tony Balin, dicono le cronache, è serenamente spirato nel suo letto, all'età di anni 94. Le cronache tacciono sui quintali di mortadella consumati, a onore dell'industria italiana, nel corso della sua lunga e operosa vita. Ora, questo non inusuale quadretto di paese non sarebbe più possibile. Tony Balin dovrebbe ogni mattina prendere la macchina, recarsi nel più vicino centro commerciale, tornare a casa con più plastica che mortadella e consumare benzina che inquina il mondo. La moglie insisterebbe per essere della partita e il carrello si riempirebbe. Ma così può far riserva di mortadella e vino anche per un mese, per bacco, dirà qualcuno. Anche per un anno, se per quello dico io. Ma vuoi mettere la mortadella appena affettata, il suo cadere sulla carta oleata, lo sguardo attento della Teresa che muove la Berkel, il suo profumo, quello della mortadella intendo. Già quello ti spalanca la giornata con un albo signandala al pillo, per non dire l'incontro sul viottolo campestre con Mariute e Vigliute e le loro franche risate e i loro saggi consigli di vita. Il mondo non è Macondo, ma i quasi 100 anni di Tony Balin non furono di solitudine. Su Risins di sopra con Teresa, Mariute e Vigliute non entrerà mai in letteratura. Non siamo qua a disquisire sulla felicità delle piccole cose perdute o su quanto è cambiata la mortadella nel tempo. Ci pare lecito però esprimere un pensiero. Nei nostri paesi, e il Friuli rimane una costellazione di paesi, la felicità delle piccole cose può essere ancora recuperata. Il Ministero della Salute sta studiando linee guida per l'allevamento del coniglio, sulle quali c'è molta preoccupazione da parte degli allevatori. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Che il benessere animale sia un tema che appassiona cittadini e consumatori è un dato di fatto, e al di là degli aspetti etici è altrettanto evidente che rappresenta un elemento fondamentale per ridurre l'utilizzo di farmaci veterinari e evitare lo sviluppo di antibiotico resistenze. Però bisogna anche dire che l'adozione di norme tecniche non supportate da dati oggettivi rischia di mettere in crisi un settore come l'allevamento del coniglio, per il quale l'Italia e il nord-est in particolare sono fra i primi produttori al mondo. Perché gli allevatori sono così preoccupati? Da mesi il Ministero della Salute lavora su linee guida per l'allevamento di questa specie e uno dei temi nevralgici riguarda la forma e le dimensioni delle gabbie. Dopo un lungo confronto tecnico tra allevatori, veterinari e ricercatori, era stato individuato un percorso economicamente sostenibile per le imprese che prevedeva l'adozione graduale di diversi sistemi a maggior benessere. Pare ora che il Ministero abbia adottato una linea più radicale, individuando un unico tipo di stabulazione possibile, di fatto eliminando tutti i tipi di gabbia, ma senza supporto di dati tecnici validati, il che metterebbe molti produttori di fronte al bivio: investire ingenti capitali per rivoluzionare gli allevamenti o chiudere. Ma investire in un settore con marginalità già molto ridotte non è per tutti. Se poi certe restrizioni dovessero valere solo in Italia, ecco che, chiusi gli allevamenti nazionali, sul mercato troveremo comunque coniglio prodotto all'estero, Francia, Spagna, Ungheria, dove le garanzie sul benessere animale non sono certo migliori che in Italia. Per inciso, la Cina è il primo produttore mondiale di carne coniglio, anche se per ora da noi ne arriva molto poca. E qual è la soluzione? E forse sarebbe meglio evitare fughe in avanti e tornare a quel percorso che era già stato condiviso anche dagli allevatori, precisando però che, proprio per evitare che le nostre produzioni vadano fuori mercato per l'inevitabile aumento dei costi di produzione, è necessario che questi investimenti sul benessere animale siano accompagnati da un sistema di etichettatura di origine, che nelle carni di coniglio purtroppo ancora manca, e da condizioni di reciprocità con gli altri paesi, europei e non, dai quali già oggi importiamo molta carne di questa specie. Nulla di più facile, solo qualche semplice accorgimento per far crescere anche alle nostre latitudini ottime e generose piante di limoni, come ci spiega oggi il professor Raffaele Testolin. Chi non ha una pianta di limone in casa, chi abita in campagna o dispone di un bel giardino, ha certamente anche una pianta di limone. Bisogna solo difenderla dal freddo d'inverno, trasferendola in un luogo protetto, una veranda, un portico riparato, e coprendola, se serve, con tessuto o non tessuto. Per il resto fa tutto da sola. Mio padre, con due belle piante ben tenute e riparate d'inverno, aveva limoni tutto l'anno. Uno spettacolo. Girando per le case vedo che non tutti hanno bei limoni e soprattutto non tutti hanno limoni tutto l'anno. Per avere limoni tutto l'anno è necessario avere una varietà rifiorente. Non tutte lo sono. La varietà Femminello è certamente la più nota. Fiorisce in tre momenti diversi dell'anno e non è difficile avere piante con fiori, frutti verdi in crescita e frutti gialli maturi contemporaneamente sulla pianta. Uno spettacolo. La potatura è a dir poco banale. Si raccorcia qualche ramo vigoroso che cresce un po' disordinato, mantenendo una forma aggraziata dell'albero. Il limone, come tutti gli agrumi, è molto resistente al secco, ma ogni tanto una caraffa d'acqua ci vuole, altrimenti la pianta rallenta la sua attività e non matura bene i frutti. Ha qualche parassita, i pidocchi e le cocciniglie, per esempio, sono abbastanza frequenti. Il problema si risolve con un trattamento insetticida. Non potendo fare altre puntate sugli agrumi, che sono la mia passione, voglio ricordare altre due specie che possono essere coltivate anche da noi con un po' di attenzione durante l'inverno. Interessanti sono, per esempio, due aranci amari, il bergamotto e il chinotto. Il primo è coltivato in Calabria per l'estrazione degli oli essenziali dalla buccia, con i quali si produce l'acqua di colonia e le creme abbronzanti, mentre il secondo serve per la produzione del chinotto, la bibita che tutti conosciamo, e liquori come il curaçao. Le bibite che vanno sotto il nome di chinotto e che si presentano di colore scuro hanno il caramello, uno zucchero cotto, che maschera l'essenza di chinotto. Da qualche anno si trova in commercio il chinotto di Savona, una bibita presidio slow food che è di colore più chiaro e in cui si trova il vero sapore del chinotto. Provare per credere. Personalmente, per concludere, cerco ogni anno chinotti e bergamotti per preparare delle confetture insuperabili. Ho una bellissima ricetta inglese, scoperta quando vivevo in Nuova Zelanda, rielaborata da mia moglie dopo anni di prove e modifiche. Se Roberto Zottar me la estorce, magari ve la racconta. La pesca, certe pratiche di pesca industriale, sono sul banco degli imputati sui fenomeni di desertificazione dei mari e cambiamenti dell'ecosistema. Il contributo è di Silvia Stefanelli. A fronte di una domanda crescente di pesce, la pesca è diventata sempre meno sostenibile e oggi le diverse varietà sono quasi tutte a rischio. Secondo un rapporto della FAO, la produzione ittica è destinata a superare 200 milioni di tonnellate nel 2030, con un aumento annuale del 3%. I mari più svuotati sono il Mediterraneo e il Mar Nero. E l'Europa non si salva. Per il periodo 2001-2018 le quote di pesca europea sono state fissate per i 2/3 al di sopra dei limiti indicati dagli esperti. L'Italia importa l'80% del pesce che consuma e tra questi almeno il 50% non ha documentazione che certifica l'utilizzo con pratiche legali. Sotto accusa ci sono le tecniche di pesca, sempre più industriali, tra le quali la pesca con reti a strascico, con reti a circuizione e con draghe. La pesca industriale ha un alto impatto ambientale, è un tipo di pesca che tende a non rispettare i limiti naturali del mare e degli ecosistemi. Pesca tutte le specie in cui si imbatte, produce sprechi e rigetti, distrugge i fondali e gli habitat. In aggiunta, nel Mediterraneo, un mare poco profondo e chiuso, c'è il problema del cambiamento climatico. Il pesce boccheggia in un mare di guai. Le temperature dell'acqua aumentano e aumentano anche le microplastiche. I tonni stanno cambiando rotta, si dirigono verso il nord. Si sono rilevate acciughe in crisi riproduttiva, specie aliene invasive, meduse che proliferano e fanno incetta di uova, di pesce e fitoplancton. Tra le specie più a rischio c'è il tonno. I dati sono impressionanti. Negli ultimi 60 anni la pesca è aumentata del 1000% grazie ai sistemi industriali, che sono arrivati a pescare 6 milioni di tonnellate di tonno all'anno. Che cosa possiamo fare? Prima di tutto evitare di comprare specie a rischio e sovrasfruttate, come il tonno, e prediligere specie autoctone dell'Alto Adriatico, non da allevamenti intensivi. Evitare di acquistare pesce che viene da zone lontane, come il salmone rosso dell'Alaska o del Cile, per l'elevata impronta carbonica ambientale. Evitare i gamberetti, il cui allevamento è corresponsabile del taglio di vaste aree di mangrovie nel sud-est asiatico. Esigere prodotti certificati dal Marine Stewardship Council o Friends of Sea. Scegliere pescato da piccola pesca costiera, la pesca praticata da navi di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano mezzi trainanti, ancora praticata nell'Alto Adriatico. Laurearsi oggi in scienze agrarie presuppone anche un tirocinio sul campo. Oggi vi riportiamo l'esperienza di Stefano De Cecco, laureando all'Ateneo di Udine, che ha svolto il suo tirocinio all'ERSA di Pozzuolo del Friuli, coordinato da Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vica nei Campi. Il percorso universitario prevede un tirocinio di circa 250 ore e io questa primavera ho deciso di svolgerlo all'ERSA, nella sede di Pozzuolo del Friuli, nell'ambito dell'orticoltura e laboratorio di substrati, seguito dal tutor Costantino Cattivello. Durante il tirocinio ho potuto apprendere molte informazioni, per esempio come si imposta, come si svolge una prova sperimentale, definendo anche i numeri di piante con cui si è soliti lavorare, per poter poi arrivare ad un risultato affidabile. Ho avuto a che fare con piante come il pomodoro, il cetriolo, la lattuga, il porro, le patate dolci e gli asparagi. Inoltre il tirocinio mi ha dato la possibilità di visitare varie realtà aziendali della regione, notando le caratteristiche delle varie zone, i vari metodi di allevamento delle colture e le varie tecniche di gestione. Ho potuto anche fare esperienze in campo, come per esempio la valutazione di particolari colle, che consentono un minor sgretolamento dei panetti durante il trapianto delle piantine. Inoltre ho avuto la possibilità di collaborare assieme all'Ente di Ricerca Internazionale di Trieste, il CCEB, che si occupa anche dello studio dei microrganismi sia sulle piante che sugli esseri umani. Altre due attività che mi hanno colpito molto sono state una prova varietale sugli asparagi bianchi, su cui una volta raccolti andavamo a misurare il diametro e il peso, individuando anche i difetti. E poi una prova sui substrati, sul geranio parigino, dove abbiamo messo a confronto più tipi di terriccio, cercando di ridurre la percentuale di torba, sostituendola con fibre di legno, di cocco e di canapulo. Io penso che il tirocinio sia un'esperienza molto utile per noi ragazzi, sia a livello psicologico che a livello lavorativo, in quanto si riesce a capire un po' come funziona il mondo del lavoro, come ci si comporta in un ambito lavorativo, come ci si relaziona con altre persone e anche quali sono i problemi e le possibili soluzioni ad essi che si riscontrano. Inoltre mi è stato molto utile perché la formazione la fai sul campo e la metti subito in pratica e sono molto soddisfatto in quanto ho imparato molte cose come il progresso nell'agricoltura, l'innovazione, la possibilità di ridurre gli sprechi, l'utilizzo di sostanze naturali, le varie realtà agricole presenti in Friuli Venezia Giulia, sia convenzionali che biologiche, e molte notizie per quanto riguarda la sperimentazione, soprattutto su substrati e colture orticole. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umiltà 14% è stato quotato tra 24,70 e 24,90 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 60-65, tra 17,80 e 18,20. Il frumento nuovo raccolto tra 20-20,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,70 euro e il frumento di 3,50 euro al quintale. Contrattazioni buone al rotofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 0,80 e 0,90 euro al chilogrammo IVA esclusa. Le zucchine tra 0,40 e 0,50. I cetrioli tra 0,60 e 1 euro. I pomodori in grappolo tra 1,50 e 1,60. La scalola riccia tra 2,50 e 2,60. Il ricchio rosso tondo e quello di Treviso si quotano tra 1,80 e 2 euro. I kiwi tra 2,50 e 3 euro. Le fragole extra trentine tra 5 e 5,50. Le arance straniere da 1,60, le nettarine e le pesche tra 1,20 e 2,50, le albicocche da 1,20 a 2,50, le ciliegie da 2,50 a 5 euro, i meloni da 0,80 a 1,50 e l'anguria da 0,45 a 0,55. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, i prezzi nell'ultima settimana non hanno subito variazioni. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunara i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 26 a 35 euro il chilo IVA esclusa. Le sogliole da 7 a 23, le mazzancolle da 19 a 24, le seppie da 7 a 12, le passere da 13 a 16, i latrini da 9 a 10, le capesante da 12 a 16, i gamberetti da 13 a 16, i moscardini da 7 a 13 e i cefali da 2 a 9 euro il chilo. Movimento in ribasso nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura viene quotato tra 13 e 13,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17 e 18 euro. E la paglia di cereali pressata oscilla tra 10,70 e 11 euro. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Settimana abbiamo avuto dei temporali, in particolare nel Pordenonese sui monti, ma giugno si è chiuso con un deficit di pioggia significativo, specie su bassa pianura, costa e zone orientali. Il mese è stato 2 gradi più caldo del normale e, come già anticipato, si pone al terzo posto dopo il 2003 e il 2019. Un record storico assoluto per il mese è il dato di 28,5 gradi della temperatura del mare a Trieste raggiunti il giorno 30. La situazione meteorologica vede scorrere sulla regione dalla notte scorsa a domani mattina correnti occidentali atlantiche con aria umida, piogge e temporali. In seguito l'anticiclone africano tenderà a spingersi ancora fin oltre le Alpi, per cui da domani e fino a mercoledì prevarrà il sole e il caldo con temperature massime che in pianura potranno arrivare fino a 32-33 gradi con caldo afoso, sui 30 gradi le massime sulla costa, minime sui 20 in pianura e 25 lungo la costa. Giovedì o venerdì una depressione atlantica si porterà sulle Alpi e potrebbe determinare dei temporali, specie in montagna, e una successiva diminuzione delle temperature. L'evoluzione della seconda parte della settimana va quindi rivista in base agli aggiornamenti quotidiani che l'Osmer ARPA elabora e che vi invitiamo a seguire. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Quan calchiante il cuc, un è di ploe, un è di sud, ovvero quando canta il cuculo, un giorno pioggia, un giorno asciutto. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.